stare, non mi sta di incomodar. Per far tutto quel che posso, signor mio col basti indosso, alla pegna mia di cope, quant'era meglio che tu andassi in fondo al mare. Grazie, quanti onori, alla fine delle cose, con il mare, alla fine thank you. Cedela. Senti, Caimacan, quando io starnuto, levati tosto e lasciami con lei. A tappeo de tappei, a quel cimento, a quel passo sei giunto. Ma che fa questa bella? Eccola, appunto. Ti presento di Addeo, Caimacan, ti presento, Sertaddeo, Caimacan. Faccio apprendi quanta stima di te faccia Mustafa. Faccio apprendi quanta stima di te faccia, di te faccia. Osservate, osservate. Thank you. E di volervi creare solo

vestiti da pappataci ed altri qui a suo tempo verranno sopra il vascello. Il gioco più bello non si può far. Eccola per Bacco, se con gli schiavi ancora. Ne ero sicuro. Quanto è brava tu sei. Con due parole agli sciocchi fa fare quello che vuole. Oh,

Mustafa,

歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。